sempre la notte è scura, la strada è la stessa, non c'è differenza alcuna tra la luna e la stella. La luce si dà alla fuga, il buio la incalza, sfinita, serena e sfuma e ombra ogni speranza. Tu sei così, fuggi da me, ma sono ormai dietro di te. Ti prenderò dovunque tu sarai. Luce d'ombra, renditi luce d'ombra. Anch'io corro a piedi nudi, ma tu sei più svelta. Saltelli sull'erba fresca come una gazzella. Lontano non c'è futuro, nessuno ti aspetta. Il tempo non ti consuma, non c'è nessuna fretta. Tu sei così bella per me, e se non lo sai, chiedilo a me. Risponderò, e rossa tu sarai. Luce d'ombra, accenditi, luce d'ombra, accenditi. Vieni da me, sarai così sempre, dovunque sei. Luce d'ombra, vieni qui, luce d'ombra, vieni qui. Sempre così ti accenderai, sempre con te vivrò. In tutti i giorni se mangi, se sto a digiuno, credi a poca importanza. La smania violenta in furia, la forza ci manca. E sventola sul tuo viso stanco bandiera bianca. Tu sei così, fuggi da me, ma sono ormai dietro di te. Ti prenderò d'ombra, renditi luce d'ombra, renditi. Sempre per me sarai così, sempre ti cercherò. Luce d'ombra, sono qui, luce d'ombra, sono qui. Sempre così mi piacerai, sempre sei di noi. E io ti aspetto qui, nel buio tu apparirai. E fuggirai da me, perché ogni tuo abbaglio traccia una scia luminosa.